e tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. E ci siamo, Ristorante Convento in diretta sabato sera con una sposa che è voluta entrare spontaneamente, proprio così, di sua iniziativa, non riuscivo a tenerla fuori, ho dovuto bloccare le porte, ma ce l'abbiamo, è entrata, eccola qua, come ti chiami? Chiara. Chiara, è chiaro, no? Che è Chiara, giusto? Da dove vieni? Trento. È chiaro che sei voluta entrare spontaneamente, vero? Assolutamente. Ok, ragazzo, voi confermate? Confermiamo. Dove sono le testimoni? Qui. Come si chiamano? Erika. No, io no. Ah, tu non testimoni? Un'amica. No. Un'amica, lei si rifiuta di testimoniare? No. Poi, cosa, questa trovatella, questa in parte. Un'altra amica, come ti chiami? Cristina. Cristina, allora, due amiche, una testimone. Tra l'altro una è sorella anche. Sì, Erika. Erika? E questo, scusa, guarda, si chiama microfono. Quella ecco, che prendeva ecco, punti. Ecco, quella che prendeva punti, ok. La sorella ha sempre preso punti nella sua vita? Sì, precisissima. Bello che mi piace che parla... L'unica cosa che non punta è il microfono, Chiara. È quello lì, questo, vedi, questo, okay. Questo coso nero, ecco, ok. Non fraintendiamo, eh. Ok, allora, Chiara ha sempre preso punti nella sua vita. Quindi, giusto? Erika. No, scusa, tu sei Chiara, è lei Erika. Ah, ok, giusto, è vero. Erika ha sempre preso punti. Quindi, tu sei la sorella maggiore o minore? Io maggiore. Che c'hai? Sì, no, gliel'ho detto anch'io di parlare, anche dalla regia arrivano insulti, non so se avete visto quello Mr. Dave, ci insulta perché non parliamo verso i microfoni, ecco, però giustamente Chiara spontaneamente ha voluto, ancora in preda all'eccitazione per essere entrata in Ristoradio, giusto? Quindi dicevamo, Chiara, no, Erika, ha sempre preso punti. Sì. Da una vita. La sorella maggiore sei tu? Sì. Quindi tu insegnavi a lei e lei prendeva punti, giusto? Sì. Allora, Erika, quando il futuro marito che si chiama? Alessandro. Bel nome, tra l'altro, nel senso, a me piace, non sono di parte, mi chiamo Sandrino, quindi non sono di parte. Quando lui le ha chiesto di sposarla, tu eri presente? No. No? Se no avresti preso punti anche lì? Anche lì, sì. Ok, sì, la sai la storia, come ha fatto? Sì, certo. Tu la sai, Chiara, c'eri? Sì, assolutamente. Ok, ce la racconti in diretta, proprio... Eravamo a Parigi sulla Torre Eiffel. Un posto così a caso? Sì, casuale. Ok, ma proviamo ragazze, proviamo? Si approva la Torre Eiffel? Sì. Va bene, ci sta. Sì. Ok, poi cos'è successo? Niente, mi ha fatto la proposta di matrimonio. Niente, così una cosa qualunque, ecco. Avete cosa mangiare stasera? So che sono invidiata da tutte le amiche, però... Ragazze, mi fate un verso da amiche che invidiano? Io lo vedo molto invidioso, è proprio una cosa... Proprio che... Peccato che non si possa vedere la faccia, però già dal verso gli amici da casa avranno capito quanto... Si può capire, sì. Ecco, la trovatella, me l'hai fatto te il verso? Certo. Me lo fai da sola? No. Prova. Fammi una solo. Attenzione, fammi da solo. No. Fantastica, ricordiamo il nome? Cristina. Cristina in assolo, vai di nuovo. No, stai qua. Fallo. No, ma io non sono invidiosa di questo. Ah, non sei invidiosa di questo? Dici, vabbè, brava. Assolutamente no. Vai avanti tu che vediamo come funziona, giusto? La mandi avanti. Esatto. Tu come ti chiami? Roberta. Roberta, fammi da solo. Da. Questo è più... Sì. Lei è invidiosa invece. Sì. Perché è single la ragazza? Sì. Quindi facciamo un appello? Certo. Allora, sì. Allora, dimmi Chiara qualcosa per favorire l'accoppiamento della tua amica. Roberta, strumentista. Molto creativa. Ecco, agli amici non interessa questo, dimmi qualcos'altro. Gli amici che ci ascoltano hanno... Spontanea non interessa, ok. Poi non la vuoi proprio fare fidanzare questa ragazza. Sai che i maschi hanno tre bottoni, praticamente funzionano a tre bottoni, cioè, non sono molto complicati ragazzi, lo sapete, no? Cioè voi come donna siete come questa apparecchiatura qua della radio, mille pulsanti, anche non si capisce voi, niente. Ah, dite che anche i maschi sono così? In fondo, se non peggio. È per quello che Erika continua a prendere appunti, perché esatto. Non ho ancora capito come funziona un uomo. Ok, tu Chiara invece hai capito come funziona un uomo e l'hai ingabbiato. Castrato? Sì. Attenzione, colpo castrato. Ah, ho capito, castrato. No. C'è stato un amico al volante in auto, in questo momento è appena sbandato dalla preoccupazione. Ha detto, cacchiolina, qua c'è preoccupazione, no, nell'aria? Sono a festeggiare l'addio al celibato, a Jesolo. A Jesolo, e l'hai castrato per sicurezza? Sì. Ah, ok, ecco. Ecco, vai, tu divertiti con gli amici, però io nel frattempo ti faccio, insomma, una tecnica. Vabbè, non approfondiamo perché iniziamo. Che fai, piangi? Sì. No, perché tra l'altro ha capito che si è auto lesionata lei, perché dice, ok, io per una sera lo metto sotto controllo, però per una vita che faccio? Come si fa? La sorella ha una soluzione? No, le amiche nemmeno? No. Perfetto. Venite da Trento voi? Sì. Siete in 33 stasera? Quasi. No, quasi? Siete in tante? No. Non dovevo chiedere quanti siete, vero? E io l'ho chiesto. Che bello, hai detto grande, grande. Siete poche, siamo tutte poche ma buone. Allora, visto che siete poche ma buone, vediamo se siete buone anche con la vostra sposa. Ditemi un pregio della Chiara. Guarda che mi guarda malissimo. Cioè, mi è piaciuto proprio lo sguardo. Un pregio, ce l'ha, sorella, tu che la conosci da una vita, ce l'ha un pregio? Sì, assolutamente, ne ha tanti. Assolutamente, mi piace la democratica, così. Ne ha tanti, ma non dice neanche uno, eh. Cioè, sì, ne ha tanti. Molto solare, energica, trasmette tantissima energia. In questo momento è radioattiva più che... più che no, io col fatto che l'ho incastrata con sta storia della radio sento energia nucleare nei miei confronti. E passiamo alla testimone che magari... Non si può vedere lo sguardo. Sei ancora lei il testimone? Ah, sei sempre te. Mania di protagonismo, la sorella, incredibili. Brava. L'amica? Molto solare. Poi colpo di scena, doppia. Sì, ok. È lei che illumina il cielo di Trento. Sì. Quindi tre, solare, poi? Solare e disponibile, assolutamente. Disponibile, assolutamente, ok. Sì. Anche tu, giusto? No, nel senso, sei single? Sì, ecco, no, ecco, era quello che dovevamo dire alla radio prima. Va bene. Poi andiamo avanti con l'altra amica. Beh, io mi sento dire solare perché non la metto nessuno. Mi piace la fantasia delle tue amiche, delle amiche fantasiose e creative anche, ok? No, è carina la mia Chiara. È carina la tua Chiara. Va bene, adesso passiamo alla domanda bastardella. Un difetto. Aia. Aia. Senza, tu la conosci da una vita, eh? Dobbiamo mettere in guardia Alessandro, a parte che penso che li sappia, no? Lo so, assolutamente. E quindi li ha digeriti e ti ama per quello, anche per quello, giusto? Quindi dillo lo stesso che le amici a casa sono esigenti. Per quello prendo punti. Brava, brava, che non si può sbagliare, non si può sbagliare. Pignola anche, io direi, pignola, giusto? Lo sapevo che lo diceva l'amica. Con l'esigente scatta la pignola. Assolutamente, sì, non scappa niente. E io paura che mi meni adesso. No, sono contenta perché manca 1:01. Ah, ecco. Ok, è partito il conto alla rovescia. 56, fantastico. 56, attenzione, no, fermo, è partito il conto alla rovescia. Pepe, è l'ultimo dell'anno, ragazzi. Dillo te, poi mettiamo giù che qua. Questo difetto? Sì. Che non riesce a nascondere le emozioni negative. L'abbiamo sentito, l'ho sentito io sulla mia pelle. È stato bello, manca poco, purtroppo ci tocca lasciare così, in maniera gioviale, contenta e felice. Aspetta che devo leggere come si fa che fanno quelli, guarda, avete già il pubblico da casa che vi saluta, è un po' che vi saluta, no? Ok, sempre quello. Che fai? Così, senza salutare. Va bene, allora un saluto dalla testimone. Ciao a tutti. Dillo anche il nome. Erika. Ciao, io sono Roberta e auguro alla Chiara una vita felicissima. Oh, anche la dedica, te, che amica, dopo tantissimo. L'hai pagata. Lei è furba, dice che adesso me la così, eh? Poi cosa? Poi, buona te. Serata a tutti. E basta, non dici niente alla Chiara? No, auguri niente, eh? Va bene? Dimmi qualcosa, ti prego. Di dolce. Per fortuna è finita. Ok, va bene, andiamo in pace. Ciao ragazzi, ciao. Ciao.